R-E-K-E, con power for the blood of fam. Un'altra, un altro euro, un'altra vita, un'altra chance, un altro amico, un altro tiro, un'altra star. Un'altra notte, un'altra estate, un altro drink, un altro abbraccio, un altro disco, un altro film. Un'altra, perché a te non basta e finché ce n'è, sei disponibile a richiederne un'altra. Perché la voglia non passa e finché ce n'è, daccene un'altra, poi un'altra. Un altro film, nuovo flash, lady, una cosa speed. Quanto la merenda, un drive-in, il mio nome lo sai, mica è stato un mistero, ballo dentro di te come Tony Manero. Another day con la cassa, alla Eddie Guerrero, ehi cugi che passa tu, ammazza io gremo. Un'altra vita per rifarmi degli sbagli e gli errori. Un altro me che compri a mamma un grande mazzo di fiori. Un altro amico, che dico? Un altro plotone come quello che c'ho, power blood dal suo nome. Voglio un altro cannone, un'altra canzone che mi faccia ricordare, che mi dia un'emozione. Cerco un'altra occasione, un'altra chance, un'altra decisione, un altro dio, un'altra metà. Cerco un altro svarione, un altro bar, cerco altre persone, altri tipi di novità, yeah. Un altro euro, un'altra vita, un'altra chance, un altro amico, un altro tiro, un'altra star. Un'altra notte, un'altra estate, un altro drink, un altro abbraccio, un altro disco, un altro film. Un'altra, perché a te non basta e finché ce n'è, sei disponibile a richiederne un'altra. Perché la voglia non passa e finché ce n'è, daccene un'altra, vuoi un'altra. Un'altra possibilità, ho sbagliato, voglio un altro passato, diverso da tutto ciò che ho passato. Voglio un'altra carriera, quella ho sempre cercato e la sto cercando stasera fuori dal mio vicinato. Voglio altri tentativi con chi mi aveva snobbato. Voglio il mio tempo e voglio quello che mi hanno rubato. Un altro sì, da chi è il meglio che ho, più tardi baby ti porto around the world. Un altro passo mi avvicino agli obiettivi stabiliti, altri miti, meno principi e molti più principi. Meno minciti e più purtroppo mi uccidi, altri limiti e molti meno confini. Altri occhi per guardare il verso giusto, spesso faccio a meno di guardare il verso giusto spesso. Altrimenti non sarei quello che sono adesso, ma in fondo il problema rimane questo. Un'altra, un altro euro, un'altra vita, un'altra chance, un altro amico, un altro tiro, un'altra star. Un'altra notte, un'altra estate, un altro drink, un altro abbraccio, un altro disco, un altro film. Un'altra, perché a te non basta e finché ce n'è, sei disponibile a richiederne un'altra. Perché la voglia non passa e finché ce n'è, daccene un'altra, poi un'altra.